Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. Volevo sapere, siete più di naso o di orecchio? Strana domanda, me ne rendo conto, ma solo all'apparenza, pensateci bene, la risposta possiamo trovarla e ci viene suggerita da alcuni modi di dire che, come ormai sappiamo, la sanno lunga. Saluto il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo ed esperto del nostro Daily Lab, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Aquilar, partiamo dal naso. Naso inteso come ficca naso, ma naso per chi ha naso? Se poi pensiamo alle orecchie, ci sono le orecchie da mercante, ma chi ha la pulce nell'orecchio? Ecco che anche stavolta i modi di dire ci aiutano a capire qualcosa. La parola ficca naso è di chi vuole sapere sempre delle cose e che quindi si intrufola, è un personaggio intrusivo e a volte eccessivamente intraprendente nell'intrudere nelle vite altrui, mentre invece il naso inteso in senso positivo è chi riesce a fiutare gli umori e le situazioni e quindi in qualche modo i modi di dire ci aiutano a riconoscere qual è il nostro uso del naso anche con una sensibilità maggiore o minore agli odori e ai sapori che hanno anche un profumo. Anche le orecchie ci raccontano, orecchie da mercante, una persona che no, fa finta di niente, mentre ci sono delle persone che vivono costantemente con quel tarlo, quella pulce, che va a finire certo proprio nell'orecchio. Come sempre, alcuni ascoltano troppo poco e altri ascoltano troppo. E con le orecchie da mercante c'è chi non ascolta quello che succede, non ascolta quello che dicono gli interlocutori, ma lo fa apposta a non ascoltare, fa finta di non ascoltare. Con la pulce nell'orecchio c'è qualcuno che è sempre intento a seguire un sospetto e anche in questo caso la parte del nostro corpo ci segnala un'abitudine, una modalità, un'interazione con gli altri mediata da questo organo, che è anche l'organo col quale però sentiamo la musica e la dolce voce di quelli a cui vogliamo bene. E infatti, dottor Aquilar, c'è chi usa più il naso, chi usa più le orecchie. Certo, c'è una sensibilità neuropsicologicamente fondata, per cui alcune persone riconoscono di più gli odori e mantengono la memoria del profumo di un'esperienza, mentre altre persone riconoscono e memorizzano meglio i suoni e le parole e quindi sono più sensibili non solo ai rumori che tendono ad evitare, ma anche mantengono il ricordo di un suono, di una melodia, di una musica. E alcuni che naturalmente tengono insieme il ricordo di entrambe le nostre attività sensoriali, il profumo e anche la dolce voce o il dolce suono. Dottor Aquilar, io la ringrazio e invito come sempre i nostri ascoltatori a leggere i post del dottor Aquilar sul nostro Daily Lab e ci sentiamo presto. Buon naso e buon orecchio. Grazie e mi raccomando, stiamo attenti agli odori e ai suoni. Leggo dentro i tuoi occhi da quante volte vivi, dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio, all'indulgenza, nel tratto del tuo naso, se sei orgoglioso, fiero oppure vile, i drammi del tuo cuore li leggo nelle mani, nelle loro falangi, dispendio tirchierie. Naso o d'orecchio? A quale dei due organi di senso vi affidate di più e quale dei due vi rappresenta meglio? 800 24 00 24, qua in studio con me il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e al Buzzi di Milano. Dottore De, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Voglio girare la domanda anche a lei, perché per lei rispondere è anche un po' più facile conoscendo perfettamente sia naso che orecchio. Ma certo, noi stiamo parlando di due organi di senso e l'uomo, siccome è prima di tutto relazione con gli altri e con l'ambiente, e il benessere dipende proprio dal tipo di questa di relazione, è estremamente condizionato nel proprio benessere da questi due organi, quindi già lo scopo di entrambi è lo scopo comune, certo, quello della relazione con l'ambiente, con gli odori, con i suoni, con la comunicazione, ma questi due organi sono anche collegati tra di loro. Sono collegati come se fossimo la stanza e la cucina, sì, che c'è l'anticamera in mezzo, che sono due ambienti sempre importanti nella vita della persona, sia la stanza che la cucina, ma si relazionano tra di loro da una specie di canalino che porta i flussi di muco dall'uno all'altro, i flussi d'aria dall'uno all'altro, diciamo così, le sensazioni, le pressioni dall'uno all'altro, e questi due organi si condizionano tantissimo tra di loro. Allora noi proveremo a capire cosa possiamo fare per agevolare questa relazione, ma a proposito del canalino abbiamo pensato ad una domanda, anzi in realtà l'ha pensata il dottor Franzetti, io ho pensato al libro da prendere nella libreria di Essere Benessere per offrirlo a chi di voi ci risponderà in modo corretto chiamando all'800 24 00 24. Il libro è Yoga Terapia, Sapienza Yogica e Scienza Medica per la tua salute, Urrà Edizioni. Dottor Franzetti, è stato abbastanza bravo, direi, nella formulazione di questa domanda, ma sì, tocca a lei. Il quizzone. Allora, dobbiamo parlare di questo canalino che collega l'orecchio con il naso. Okay. E per far questo prendiamo in causa tre grandi scienziati della storia del mondo. Sì. Che sono Galeno, sì, Eustachio e Falloppio. Sì. Allora, stiamo parlando di un punto di passaggio che unisce due ambienti ampi e è stretto. E quindi la prima risposta è: si chiama stretto di Galeno. La seconda possibilità, parliamo sempre di un punto di passaggio che ha dei flussi e quindi può essere un tubo, sì, o una tuba, sì, e quindi potrebbe essere una tuba di Eustachio, importante scienziato della storia, oppure, terza possibilità, una tuba detta di Falloppio, cioè che prende il nome di questo grande medico della storia. Quindi, come si chiama questo canalino? Stretto di Galeno, tuba di Eustachio o tuba di Falloppio? 800 24 00 24, abbiamo visto che sono già unite da questo canalino, ma andiamo ad analizzare alcuni punti in comune tra orecchio e naso. Ad esempio, sentono, si usa il verbo sentire per fare riferimento all'attività e alla funzione sia del naso sia dell'orecchio. Dottor Franzetti. Certo, perché il naso sente gli odori e quindi partecipa a sentire i sapori, e quindi è fondamentale nella relazione col gusto, col cibo, con le cose. L'orecchio sente i rumori, sente le voci, e quindi è importantissimo nelle relazioni. Poi le orecchie e il naso si tappano, il certo, naso chiuso da raffreddore, le orecchie si tappa quando sale in quota, oppure fischiano e prudono. Adesso tocca a voi farci sentire che cosa vi dicono il vostro naso e le vostre orecchie. Funzionano bene? Sentono bene i profumi, i suoni? Si tappano? Fischiano? Prudono? C'è una roba alle mani, guarda, mi sto grattando troppo, si vedono le ossa. Ma sì, che anche stamattina c'è tutto un prurito qua. Io non ce la faccio più. Più mi lavo le mani, più mi viene da grattare. Pippo, vai in farmacia e fatti dare qualcosa per estirpare il male alla radice. Dottor Franzetti, non sempre quando il naso prude arrivano i soldi, è molto più probabile che questa sia la reazione a qualche cosa di fastidioso. Certo. E di nasi che prudono in questo periodo ce ne sono parecchi. Eh sì, il problema del prurito al naso sembra un problema da niente, ma è molto molto fastidioso, perché può essere dovuto o a qualcosa che lo stimola dall'esterno nell'aria che arriva verso il naso, oppure può essere condizionato da come sta il nostro organismo, da come sta il sangue, da come sta il sistema linfatico, da come sta il nostro intestino. Entrambi, sia l'orecchio che il naso, sono molto condizionati nelle loro mucose dalla situazione, dalla capacità di assorbimento di acqua, di sali minerali, di vitamine dell'intestino. Quindi i problemi intestinali possono darci problemi di naso? Possono darci problemi di naso, di faringe e di orecchio, sicuramente. Come facciamo ad accorgercene? È la nostra dieta che è sbagliata? Ci sono dei sintomi particolari? Ci sono degli alimenti che possono innescare questa reazione? Beh, è più tipico di chi ha dei disturbi di tipo gastrointestinale accorgersi che periodicamente, andando meglio l'intestino, va meglio il naso e l'orecchio, andando peggio tende a peggiorare anche il benessere del naso e dell'orecchio. Ma anche in momenti particolari della nostra vita, quando facciamo delle diete non particolarmente adeguate, può succedere per esempio che pruda il naso, che pruda l'orecchio, che si sviluppino degli eczemi o cose del genere. 800 24 00 24, quindi oggi partiamo dal naso e dell'orecchio, ma andiamo anche a valutare un po' la salute del nostro intestino. Ma tornando al prurito, anche le orecchie, per non essere da meno, prudono. È un sintomo abbastanza fastidioso e direi anche imbarazzante, perché come tutti sappiamo il prurito scatena il desiderio di grattarsi, ma secondarlo, oltre a essere contrario dal bon ton, rischia di peggiorare anche la situazione, cosa che noi vogliamo assolutamente evitare. E per questo in linea abbiamo il professor Giuseppe Monfreco, l'ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Professore, un prurito molto fastidioso all'orecchio, di solito a uno solo, si lamentano anche i bambini, a volte anche proprio lavarsi le orecchie, detergerle con l'acqua, accende una sorta di fuoco. Che cosa si fa per arrestare questo prurito e soprattutto cosa non si deve fare per peggiorare la situazione? Beh, prima ancora di dire cosa fare o non saranno fare, vediamo che cosa potrebbe essere una cosa del genere, perché il condotto uditivo esterno è rivestito dello stesso epitelio, della stessa roba di cui è fatta la nostra cute, quindi ne condivide alcune condizioni. La più comune, per esempio, è la dermatite seborroica. Tutti quanti la conoscono con il nome di crosta lattea nel bambino, ma nell'adulto e nell'adolescente esiste anche questa, e spesso coinvolge il condotto uditivo esterno con arrossamento, con desquamazione, con molto prurito. Per capirci, si tratta di quella condizione che ci determina una furfura intensa al cuoio capelluto, un po' grassa, sì, qualche volta un arrossamento alle ali del naso o alle sopracciglia. Ecco, in questo caso che cosa fare? Rivolgersi all'otorino o al dermatologo, a seconda della situazione, e la malattia non è né infettiva né di natura allergica, ma è una predisposizione genetica. In questo caso delle creme emollienti, delle creme lenitive, sono dei dermocosmetici, possono bloccare arrossamento e prurito. Nei casi piuttosto importanti, almeno per pochi giorni, il consiglio può essere quello di applicare un qualche topico, qualche sostanza che può contenere del cortisone, ma solo per pochi giorni e dopo una diagnosi, una visita accurata fatta dall'otorino, che può vedere la parte più interna, o dal dermatologo, che ne può vedere la parte più esterna naturalmente. Ed evitare assolutamente di, questo lo diciamo sempre insieme al dottor Franzetti, di introdurre bastoncini, esatto, cercare di grattare, di arrivare. Insomma, evitiamo, prima di tutto cerchiamo la diagnosi e poi evitiamo il grattamento, anche se viene quasi istantaneo. Grazie professor Monfrecola per essere stato con noi. Buona Pasqua. E buona, noi andiamo a Roma, che c'è Massimo in linea con noi, 800 24 00 24. Massimo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione, ovviamente molto, sempre molto frizzante e divertente, oltre che interessante. E volevo dire soltanto questo, che il rapporto fra naso e orecchio non è un rapporto di coppia forse, ma è un menage a trois, visto che c'è sempre anche la bocca in mezzo. Sia per vero. Guardare l'esterno e l'interno, insomma, dai seni mascellari ai seni nasali sono comunicanti, ma comunque anche il discorso dei sapori, delle comunicazioni e tutto quanto il resto. È vero, mi piace questo del un po' il triangolo, no? Invece il triangolo sì, in questo caso, perché il dottor Franzetti, come Massimo ci fa notare, è un ménage à trois. Assolutamente sì. Hai capito. Allora, 800 24 00 24, vi ricordo la domanda di oggi: come si chiama quel canalino che unisce orecchio e naso? Stretto di galeno, tuba di Eustachio, tuba di Falloppio. Per il primo di voi che ci chiama al numero verde 800 24 00 24, naturalmente con la risposta giusta, yoga terapia. Dottor Franzetti, abbiamo detto che l'orecchio e gola, e orecchio e naso sono a braccetto e si condiziona la vicenda. Infatti, se il naso è in difficoltà per un'allergia, per un raffreddore, anche le orecchie ne pagano le conseguenze per colpa di quel canalino di cui adesso stiamo cercando il nome. Ma la buona notizia, almeno quella che dite voi, è che tenendo bene il naso noi evitiamo che le orecchie si ammalino. Per questo consigliate di tenere il naso pulito ai bambini, ma anche a chi bambino non è più. Di solito facciamo i lavaggi nasali ai nostri bambini e noi adulti non li facciamo. Abbiamo parlato tante volte di come si pulisce correttamente il naso, ma repetita iuvant, quindi noi abbiamo tutto l'occorrente, bastano un naso, due narici, una siringa senza ago, un lavandino, immagino, dottor Franzetti? Sì, si può usare la classica classica siringa con della soluzione fisiologica che viene presa tranquillamente in farmacia, e in alcuni casi, soprattutto quando uno ha un naso che forma del muco molto denso, delle crostosità, sarebbe anche indicato magari utilizzare la fisiologica tiepida, quindi fatta intiepidire prima, oppure ci sono tantissimi preparati che vanno da soluzioni ipertoniche, isotoniche, eccetera, spray con dei getti di varia potenza che possono aiutare la pulizia del naso in questo senso. Abbiamo in linea con noi Paola, ci chiama da Roma. Buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno. Lei fa i lavaggi nasali, Paola? No, assolutamente no. E perché? Perché temo che il collegamento sia più con l'intestino, cioè io ho ciclicamente dei raffreddori che durano una giornata, però ricollego a un problema intestinale, non so. Si è fatta un po' questa idea e ha trovato conferma oggi nel dottor Franzetti, esatto, con questa affermazione, devo dire, ha aperto la porta. Molti ci stanno scrivendo: è vero, quando cambio dieta mangio i latticini. Lei mi sta facendo, a me non me l'ha mai detto, ad esempio, che ho sempre il raffreddore. Paola quindi ha intuito che ci potrebbe essere questa relazione, ed è una relazione molto intrigante che interessa i nostri ascoltatori. Approfondiamo magari qualche aspetto, in modo che non è che dobbiamo curarci da sole, ma cerchiamo di capire. Sì, la prima cosa da considerare di ciascuno di noi è che noi siamo una persona tutta intera e che quindi non è che dobbiamo analizzare i vari organi solo settorialmente. Una volta che abbiamo escluso che non ci siano dei problemi allergici importanti o delle intolleranze importanti per la situazione nasale, una volta che abbiamo escluso che non ci siano delle patologie grossolane evidenti, anatomiche o fisiologiche del naso, il problema è proprio dare credito a questo dato anamnestico, cioè quando si altera la situazione gastrointestinale si altera la situazione nasale. Allora a quel punto la causa va cercata nel cercare di migliorare la situazione gastrointestinale, perché laddove si cerca di fare un approccio diagnostico più, diciamo, ampio, diverso e eventualmente anche terapeutico diverso, quindi il mettere insieme, il far comunicare anche più specialisti che abbiano questa visione della persona globalmente, si riesce a risolvere dei problemi anche con poco, perché magari il naso non va neanche curato, non va neanche toccato e bisogna risolvere un altro tipo di problema. Comunque, se uno nota che ha dei problemi gastrointestinali e non c'è una ragione importante per la patologia nasale, conviene sempre andare a risolvere il problema gastrointestinale, perché perlomeno risolve quello. Allora, noi adesso andiamo a sentire il nostro Daily Lab, una piccola pausa, il meteo, perché così capiamo che vacanze ci aspettano, e poi noi torniamo qua con le vostre orecchie, il vostro naso, e noi tanto qua ce lo guardiamo un po'. Chiederò al dottor Franzetti di darmi qualche indicazione fuori onda. Tra poco. Daily Lab, i consigli della salute. Essere e benessere. Semplici e un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi. Ma io sono con te ogni giorno. Dottor Franzetti, acqua e sale al nostro orecchio e al nostro naso piacciono. Eh sì, molto. E infatti li usiamo per la detersione, ma a volte noi abbiamo parlato dell'importanza di tenere pulito bene il naso per evitare che le orecchie, è colpa sempre di quel famoso canalino, ma potrebbe essere anche colpa dell'intestino. Vede che tutto fa rima qua. Le nostre orecchie soffrono, ma al naso a volte basta cambiare aria e a volte non è necessario proprio uscire, andare lontano, ma entrare in una stanza tutta rivestita di sale. Si chiama aloterapia, sta riscuotendo molto successo, dottor Franzetti. Ci sono queste sale, stanze completamente rivestite di sale, con il pavimento fatto anche di sale. E come... è molto carino anche come ambiente. Certo, certo, crea un clima particolare all'interno. Ecco, consigliati ci sono, sono, si stanno ormai diffondendo in molti centri benessere, e sembra che siano un vero aerosol, no? un grande aerosol rinchiuso in una stanza. Sì, non è proprio un aerosol, però voglio dire, l'effetto si avvicina, è un ambiente che condiziona proprio tutta la fisiologia del naso, dell'orecchio e del canalino. Non hanno in questo momento una controprova scientifica fondata o pubblicata in maniera importante. Io di questo posso dire l'esperienza che traggo dai pazienti o dalle persone che seguo, che conosco, che iniziano ad applicare questo tipo di trattamento. Sì. Che, se posso dire la mia impressione su questo, è questa, nel senso che sicuramente questo microclima genera una modificazione della fisiologia del naso e dell'orecchio. Mm. Quindi asciuga e migliora o aumenta spesso la secrezione mucocatarrale. Questo facilita proprio la funzionalità delle ciglia, delle mucose all'interno del naso, del canalino, dell'orecchio, eccetera. E però ci sono, io noto due tipi di risposte. Un tipo di risposta di netto miglioramento delle sintomatologie, un tipo di risposta invece che con l'aumento della secrezione catarrale porta, per la non capacità di espettorare in maniera corretta, a sviluppare magari delle forme catarrali acute. Il mio consiglio è quello che se uno dopo 2 o 3 giorni inizia a sviluppare o a peggiorare la sintomatologia, come tutte le terapie di cui uno è particolarmente intollerante, io sospenderei la cosa. Se ma invece... si legge molto spesso, per descrivere queste stanze di sale, le si paragona un po' al mare in una stanza. È corretto questo? È vero che mezz'ora di sosta in queste stanze equivale a 3 giorni di vacanza al mare? Ma concettualmente, a prescindere dai numeri, mezz'ora, 3 ore che non sono documentabili in questo momento, concettualmente sì. Quindi si può dire il mare in una stanza? Si può dire. Dai. Ma però non ci sono ancora prove scientifiche, ma la buona sorpresa è che la ricerca sta indagando, ha voluto saperne di più al Policlinico di Bari. Infatti è partito uno studio dopo Io Cieco per misurare gli effetti dell'aloterapia e quindi per capire sostanzialmente se, oltre a regalare benessere, una sosta nella stanza del sale può funzionare anche come una terapia. In linea con noi abbiamo il professor Matteo Gelardi, che è responsabile del servizio di rinologia clinica presso la clinica Autorino laringoiatrica di Bari. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti. Mi stavo inciampando più volte, un inciampo dietro l'altro, ma finalmente eccola. Allora, le buste, professore, sono ancora chiuse, quindi noi non possiamo, voi soprattutto non potete dire nulla, perché la ricerca è in corso. Certo, ha fatto bene a dirlo, perché è uno studio in doppio cieco. La comunità scientifica cerca sempre questo genere di studio, quando sia lo sperimentatore sia chi va dentro non sanno cosa stanno facendo. E quindi pensiamo di dare i primi risultati, ahimè, verso settembre, ottobre, perché oltre a farli stare all'interno nella stanza del sale un paio di settimane, poi noi studieremo anche quello che accade dopo, nei 3 mesi successivi. Certo. E quindi questo follow up piuttosto lungo ci potrà servire per capire quali sono i bersagli di questa terapia. Ecco, che cosa succede nel breve e nel lungo periodo, e certo, quindi se questa stanza del sale potrebbe essere suggerita proprio come terapia, non solo come occasione di benessere. Ma... certo, c'è una bella differenza tra il benessere e la salute. Certo. Quindi dobbiamo passare dal benessere alla salute, quindi dalle spa, dai centri benessere, e se c'è questa possibilità, questo link terapeutico sarebbe magnifico. Sarebbe rubate la stanza del sale ai centri benessere. Guardi, è un'esperienza interessante quella di vedere i bambini che arrivano in clinica. Guardi, la nostra camera del sale è situata al primo piano, li vediamo correre. Difficilmente i bambini corrono per una terapia in un ospedale, quindi questa è stata una buona idea. Una strana idea. Poi un altro particolare, questo sempre per parlare del compliance, quella della, che si chiama aderenza, sì, alla terapia, è difficile, entrano tranquillamente, di difficile farli uscire. Perché si divertono e quindi, siccome scatta il cicalino, dopo la mezz'ora escono loro, devono entrare gli altri, e quindi c'è un po' di maretta. Non vogliono. Ma questo è sicuramente un aspetto positivo, perché certo, per i bambini magari che soffrono di tonsillite, adenoidi, l'idea di proporre una terapia che funziona e nello stesso tempo quindi li evita di prendere farmaci e li fa stare bene anche durante la terapia, quindi nell'attesa che si aprano le buste, professore, che cosa notate voi? Concordo con quello che diceva il collega prima, effettivamente le impressioni sono giuste. Quando il collega diceva che alcuni hanno una reazione piuttosto esagerata, mi ha fatto subito pensare a quella che noi chiamiamo presso i centri termali la crisi termale. Sì. E una percentuale di pazienti che fanno le cure termali dopo 3-4 giorni hanno quella che viene definita crisi, sì, dove l'accentuazione della sintomatologia esprime proprio la crisi. E quindi molte volte loro che fanno o interrompono, ma il più delle volte il medico termale dice di pazientare e magari posticiparla. Quindi in linea generale ci troviamo, anche perché guardi, noi stiamo esaminando una cosa molto simile. Se uno va alle cure termali trova il sale e lo iodio, sì, a volte trova anche il bromo, le cosiddette cure salso bromo iodiche. Beh, quello che noi vediamo all'interno, viene portato un po' di particolato che è a base di sale e a base di iodio. Certo, ci manca il bromo, sì, però ci avviciniamo molto e quindi la questione del sale accompagna l'uomo l'uomo dall'età della preistoria, quando lui si accorse che non doveva andare a caccia tutti i giorni perché poteva mettere il cinghiale sotto sale e quindi poterlo conservare. Quindi, come vede, poi è stato considerato l'oro bianco, tant'è vero che il termine salario, che si usa ancora oggi, che oggi si usa moltissimo in questi giorni, il concetto di salario è proprio legato a quello. Vede, quindi abbiamo una vita proprio, siamo intrecciati, un destino intrecciato, un po' molto uniti, come noi stiamo parlando di questi due organi di senso, naso e orecchio, che sono con questo tubicino, lei non deve dire il nome, professore, perché è il nostro quizzettone, ma che sono collegati e si condizionano. Professore, è vero che i bambini, spesso i bambini smettono di russare dopo un soggiorno? Ecco, questa è l'altra sensazione, quando loro vengono le mamme, perché poi le sa, le mamme chiacchierano molto. Ma nell'attesa che i bambini... Voi potete, dovreste fare anche qua uno studio doppio cieco, perché non sappiamo se i papà chiacchiererebbero nello stesso modo, perché siamo sempre noi che li accompagniamo e chiacchieriamo noi. Certo. Sì. E allora, no, ma sa, siccome questa sala è attrezzata, sì, anche per chi aspetta, abbiamo messo... Insomma, tra chiacchiere, sale, eccetera, si sta bene. Abbiamo capito che è una bellezza, almeno quasi uno spazio benessere. Sì. È vero che non russano? Perché questo mi spingerebbe a suggerire alle amiche da casa che potrebbero portare i loro mariti. Poi non per buttare la chiave, poi lì mezz'oretta e poi vediamo. Professore, grazie per essere stato grazie con noi, buonissima giornata. Noi invece da Bari passiamo a Napoli, perché c'è Gennaro che ci chiama all'800 24 00 24. Buongiorno Gennaro, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, per il quizzettone. Ah, il quizzettone, Gennaro, yoga terapia, dai allora. Io avevo immaginato potesse entrarci galeno, perché ho sentito parlare prima di cambi di pressione, passaggi di pressione fra naso e orecchie, allora ho immaginato che c'entrasse galeno, di cui ricordo scolasticamente di aver studiato qualcosa inerente alle perché le diceva galeno, perché aveva a che fare con la pressione. Con la pressione, sì. Però la cosa è carina, no? Sì. Potrebbe essere, Gennaro, però creativa come risposta. Sì, certo. Però il dottor Franzetti non si accontenta, Gennaro. Però lei ha aiutato, perché abbiamo capito che galeno è eliminato. Invece noi andiamo da Ulisse, che ci chiama dalla provincia di Macerata. Buongiorno Ulisse. Buongiorno. Allora, la mia è una curiosità. Sì. Io volevo sapere perché si formano e come trattare quei fastidiosi foruncoli che ogni tanto nascono nelle cavità nasali, in particolare all'interno della narice. Spesso agli uomini, vero, dottor sì. Franzetti? Allora, due non cose. Mi ha risposto, però, sì, agli uomini. Noi spesso donne chiacchieriamo, uomini. Mentre voi uomini avrete foruncoli nel naso, forse perché chiacchierate poco. O perché si mettono di più le dita nel naso. Va bene, perché allora? Allora, la prima cosa è che il foruncolo è un'infezione di bulbi piliferi che ci sono nel naso. Mm. E il foruncolo nel naso non va mai trascurato, anzi va proprio curato quando si forma, ma soprattutto bisognerebbe cercare di non farlo venire, perché il drenaggio venoso del naso va direttamente al cervello. E quindi, diciamo così, non è sicuramente salutare il fatto che ci possano essere dei germi che passano la barriera ematoencefalica e vanno al cervello. Quindi è un posto molto delicato, è un posto questo, molto è un po' pericoloso. E che va proprio salvaguardato. Quindi la prima cosa è, il foruncolo spessissimo viene per un problema di igiene nasale, soprattutto per esempio per chi mette spesso le mani, le dita nel naso. Per cui la prima cosa è evitare assolutamente di mettere le dita nel naso. Sì. Seconda cosa, tenere un'igiene nasale, che vuol dire il soffiare il naso, pulirlo spesso. A volte quelli che hanno delle secrezioni particolari, hanno più peli nel naso, magari detergerli con dei lavaggi, magari la sera, magari in maniera più continuativa. Se si formano tante croste, ci sono tante pomate umettanti che non fanno formare le croste, perché le croste danno la possibilità di formare questi foruncoli. Se si forma il foruncolo, usare subito delle pomate antibiotiche locali per un certo periodo di tempo. Se il foruncolo diventa molto dolente e a volte la punta del naso, l'ala del naso diventano rossi e fanno molto male, allora bisogna anche passare a un antibiotico per via sistemica. Quindi no, il primo consiglio, non mettiamo le dita nel naso, sì, assolutamente. Non è una battutina come mi suggeriva l'ascoltatore, è proprio un consiglio del medico. Essere e benessere. Voilà, eccoci, c'è Alessandro da Roma. Buongiorno Alessandro, benvenuto. No. Io vorrei prendere due piccioni con una fava. Ho un problema alla tuba e rispondere anche alla domanda, che è la tuba di Eustachio, posso? Può, dottor Franzetti? Può. Allora la sua risposta? La tuba di Eustachio. La tuba di Eustachio, ed è infatti la risposta esatta. Benissimo. Però anche questa mi piaceva, lo stretto di Galeno, eh? Devo dire che... Alessandro, eccoci a lei. Allora, il libro Yoga Terapia è suo, ma che domanda voleva fare? Io ho un problema proprio alla tuba. Da circa un anno ho uno scrocchio alla tuba, e probabilmente ho fatto una dieta incongrua, non lo so. Però ho fatto un'operazione al setto nasale deviato, ai turbinati... però ancora mi scrocchia, solo quando faccio la decompressione riesco a ottenere un breve riposo della tuba, e io non so quello che devo fare, perché a parte la dieta e l'intestino ho dei problemi, però pensavo di fare alle terme oppure... Le cose endosubariche. Chi è? Però lei ha qualcuno, Alessandro, che le suggerisce? Mi suggerisce, sì. Sua moglie. Mia moglie. Dice, digli così. Digli così, perché magari è stata anche lei a suggerire la tuba di Eustachio. Non ce lo dirà mai Alessandro, ma dottor Franzetti, la tuba che scrocchia. Allora, la tuba che scrocchia è un disturbo che spesso succede. Non c'entra molto l'intervento che ha fatto al naso, ma spesso è legato a dei problemi di tipo muscolare, perché la tuba si apre e si chiude su un movimento di due o tre muscoli che devono essere sincroni. Se noi sviluppiamo delle tensioni muscolari anomale, questo può portare questi scrocchiamenti all'interno della tuba, che non sono nient'altro che degli spasmi muscolari che si sentono quando passa il muco. Ecco, importante in questi casi o fare delle cure termali, oppure ci sono tantissimi trattamenti, magari di tipo osteopatico, che possono aiutare questa situazione. Tornando al nostro naso, lei, dottor Franzetti, ce l'ha ripetuto, il naso ci guida, ci aiuta, con il naso annusiamo e quindi poi la memoria olfattiva, ne abbiamo parlato tante volte, e ci guida anche nelle scelte, anche se non sempre ne abbiamo consapevolezza. Succede con le persone, che alcune ci piacciono a naso, altre hanno un non so che non ci convince, e succede anche con gli alimenti. Il nostro naso ci avverte se il cibo che abbiamo davanti è buono o cattivo. Allora, lasciamoci guidare da questo straordinario e raffinato esperto per scegliere bene. Mettiamolo al lavoro. Iniziamo dai profumi buoni, come quello del cioccolato. Questa è la sua stagione, e perché allora non iniziare il nostro allenamento proprio dalle uova pasquali, quelle di cioccolato? Il cacao, uno dei cibi con più significati nella storia umana. Per gli aztechi era la bevanda degli dei, per i maya moneta, per i nobili francesi la cura del buon umore. Per le monache del Seicento, il peccato. Giuravano di astenersi dai piaceri della carne e dal cioccolato. Che cosa vedete qui? Cioccolatina a stampo. Il guscio è di nero al 70%. Ripieno praninato di nocciole. Secondo me c'è anche un goccio di rum. Io vedo un uomo al bar, beve il caffè. Ha problemi al lavoro, guai a casa, rate, piccoli sogni infranti. Li vede, ne prende uno e lo mangia. In un istante il tempo sembra fermarsi. È un piccolo momento d'estasi. Signori, se siete venuti qui per fare cioccolatini, potete anche andarvene. Qui si fanno piccoli momenti di estasi. Saluto la professoressa Sara Farnetti, internista, nutrizionista all'Università Cattolica di Roma. Buongiorno, bentornata. Buongiorno. Noi noi siamo un attimo prima del momento dell'estasi, perché annusiamo il cioccolato. Assolutamente, il cioccolato libera più di 600 molecole odorose. Ma il cioccolato, quello buono, quello amaro, quello extrafondente, quello che viene davvero dal cacao, e quel cioccolato fa bene. Quindi mangiamoci il cioccolato a Pasqua, ma cerchiamo le uova di cioccolato vero. Io lo concedo sempre, anche in chi è più attento alla linea, 15-20 grammi di cioccolato ogni giorno, da sgranocchiare magari invece di un pacchetto di cracker o di un pasto troppo non adatto, ricco certo. Di zuccheri, degli snack, è sempre una scelta ottimale. Ma parlavamo dei profumi, sì. Se non sbaglio, e il cioccolato non è l'unico esempio di cibo in cui l'odore è il segno della pregiatezza, della qualità. Pensiamo all'olio, l'olio extravergine d'oliva. Uno dei sistemi per capire se un olio è buono è proprio l'odore, purtroppo non il colore, perché il colore si presta a molte sofisticazioni, ma l'odore ancora no, l'odore fruttato, di erba tagliata, quello è l'indice, per esempio, che quell'olio viene dalle olive, è stato franto, spremuto a freddo, eccetera, perché quello è un sistema che ci permette di riconoscere l'extravergine. Poi un'altra idea interessante di cui abbiamo sempre parlato: attenzione, profumiamo proprio i nostri piatti con le erbe aromatiche. Lì il profumo è il, diciamo, indice di quanti polifenoli ci sono, ad esempio, in queste erbe aromatiche, e sappiamo quanto sono importanti i cosiddetti ORAC, quindi la salvia, il rosmarino, il timo, l'allora. Anche qui il profumo, ecco, aggiunge qualità ai nostri piatti e salute. Grazie professoressa Farnetti per essere stata con noi. Partiremo dal cioccolato, ma continueremo il nostro esperimento nell'olio e nelle erbe aromatiche. Siamo in una stagione meravigliosa, allora andiamo di naso. Grazie Simone, buongiorno da Cagliari. Buona giornata a voi. Buona giornata. Sì, io volevo dire al professore che purtroppo ho una forte difficoltà a sentire i profumi e gli odori, il che potrebbe aiutare il mio stile dietetico, perché mi fa propendere per cibi più salutari, però insomma diventa estremamente fastidioso. Sono stato da un otorino, mi ha diagnosticato una leggera poliposi che poi ho curato con... Sono allergico, premetto, sì. Quindi ho sempre spesso prurito al naso, curato con un po' con del cortisone che mi aveva completamente guarito, però insomma... Insomma, sì. questa perdita del Simone, profumi e il dei... fatto che lei ha detto ho usato il cortisone e sono completamente guarita è una grandissima notizia, perché vuol dire che le sue cellule olfattorie funzionano ancora, che si tratta solo di fargli arrivare sopra l'aria, e quindi in ispirazione o in espirazione bisogna risolvere il problema dei polipi. Allora Simone, quindi gli abbiamo dato una buona notizia. Intanto io devo salutarvi, Roberto Scaltritti in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, dottor Franzetti, grazie, auguri anche a lei, auguri che ci ha ascoltato. Noi ci sentiamo lunedì. Buona Pasqua da Nicoletta. essere e benessere.